nessuna è perfetta. Viaggio dentro i luoghi non comuni dell'universo femminile. Di Maria Latella. Eccoci, buona domenica, bentornati a Nessuna è Perfetta, il programma che da 5 anni ogni domenica mattina vi tiene compagnia. E siete in tanti a dirci che vi stiamo tenendo compagnia in questi mesi che sono stati molto duri. Ci sono tanti vostri messaggi, mi fa molto piacere che ce li mandiate all'828 1212, che è il numero della nostra casella vocale. Cominciamo subito col sentire quelli che ci avete mandato a proposito della puntata di domenica scorsa. Grazie Maria, grazie a questa trasmissione che ci fa tanta compagnia la domenica, soprattutto a noi donne. Sì, la quarantena ci è servita tanto anche per utilizzare questo tempo, non perderlo, per stare bene, anche sì, per pensare che la bellezza fa parte dello stare bene, e guardarsi allo specchio e anche sorridere di noi, anche con i nostri difetti, però proprio nella cura questo mi ha dato una grande mano, e penso che è una lezione che ho imparato anche per il dopo. Grazie e buona domenica a tutti. Ecco, ma non sai quanto mi fa piacere sapere che vi teniamo compagnia la domenica e che ora che la quarantena è passata possiamo dirci di esserci fatti davvero compagnia la domenica, con anche la durezza di certi momenti. Speriamo di esserceli lasciati alle spalle, ragazzi, dai. E comunque, siccome ne arrivano tanti di messaggi, io vorrei sentirne ancora un po', sempre quelli che mandate all'828 1212, ve lo ricordo. Ho ascoltato con piacere la sua trasmissione dedicata al prenderci cura di sé. Certo, complice la quarantena, abbiamo senza dubbio avuto più tempo per farlo, ma credo sia importante non trascurarsi mai, perché benessere psicologico dipende anche dall'armonia che abbiamo con il nostro corpo. E glielo dice un'anziana ascoltatrice di 78 anni che non ha mai smesso di farlo. Avanti così. Hai ragione, il benessere psicologico dipende molto dall'armonia che abbiamo con il nostro corpo, ed è proprio di questo che in fondo questa domenica vogliamo parlare. Voglio parlarvi di quanto la gratitudine, il senso di gratitudine che ha permeato molte delle nostre giornate, pensando a quello che stavano facendo per noi medici, infermieri, sanitari, pensando a questa categoria, ma anche a tutte le altre che hanno lavorato per noi nei mesi in cui l'epidemia ha chiuso un po' tutti noi in casa. Ecco, il senso della gratitudine è qualcosa che non deve perdersi ora che torniamo a uscire. È proprio di questo, del non dimenticare chi è stato essenziale per la nostra vita, e nel non dimenticare che dire grazie, sentire gratitudine per qualcosa è assai benefico anche per il proprio corpo. Ci sono due ricercatori, Hammons e McCullough, che hanno fatto studi su questo, hanno condotto esperimenti su un gruppo di persone che ha tenuto un diario settimanale della gratitudine, accorgendosi che man mano che questo diario andava avanti il senso di gratitudine per delle persone che avevano fatto qualcosa per loro, o anche semplicemente perché una mattina c'era un sole molto bello e si provava gratitudine nel vederlo, ecco, tutto questo aveva un effetto positivo sul loro benessere, sul fatto che magari certi piccoli malesseri sembravano attenuarsi. Cercheremo di capirne di più e soprattutto di dirci fortunati per poter provare gratitudine, e sono sfortunati quelli che non la provano. A voi invece sarò molto grata se, come avete fatto tutte queste domeniche, farete sentire che pensate, i vostri commenti, i vostri pensieri all'828 1212. Questa domenica non c'è una Sunday Girl, ma c'è un Sunday Boy. E chi sarà mai? Benvenuto, buona domenica, Lapo Elkan. Ciao Maria, come stai? Che bello sentirti. Sono positivo anche per me. E costruttivo. Positivo e costruttivo. Allora, tu hai avuto un grave incidente in Israele qualche mese fa. E adesso come stai e che cosa ha cambiato in te questa prova? Ma diciamo che io, cioè, parlando della mia fondazione, già dal 2016 che ho incominciato con la fondazione Lapsa, sono tante cose, da Scampia, da progetti per Scampia per i bambini, progetti per la DHD e la DD, progetti per la dislessia, progetti per problemi di bambini, come dire, che vengano battuti, e tantissime altre cose. Poi c'è stato, come dire, certamente l'incidente in Israele, e post incidente in Israele è successo subito il Covid. Io sto molto bene, ma molte persone non stanno molto bene, e il mio obiettivo personale è stato quello di mostrare tramite la Fondazione Labs la solidarietà a 360 gradi. Abbiamo sviluppato una campagna prima per l'Italia, dove abbiamo raccolto fondi per buoni pasti e buone spese per le famiglie che non hanno di che mangiare, e al contempo stesso abbiamo raccolto, grazie a partner come Italy, tonnellate di pasta, piuttosto che con Barilla, 2 milioni di colazioni, se non vado errando. Lo stesso abbiamo fatto in Portogallo, dove abbiamo raccolto tanto e abbiamo raccolto 150.000 tonnellate di cibo. Stiamo adesso esportando dall'Italia con amore e generosità la campagna fatta da Independent Ideas e da me stesso con il mio team, e anche con l'Apps il progetto in altri paesi del mondo, paesi europei, paesi non europei, in America del Sud e negli Stati Uniti. Per quale motivo? Perché il motivo è che c'è sempre più povertà, c'è sempre più persone che non hanno di che mangiare e che muoiono di fame, e sento e risento, come dire, la necessità di diventare un imprenditore della solidarietà. Dunque vuol dire che in tutto ciò che farò, anche con le mie aziende, oltre che la mia fondazione, una parte dei profitti verranno devoluti o alla FOA, ai progetti della Fondazione Labs, perché penso che in un momento come questo del mondo, del pianeta, sia cruciale la generosità, sia cruciale dare e supportare chi è nel bisogno, e lo sento personalmente, lo sento profondamente nel mio cuore, ed è un qualcosa che voglio fare nella mia vita. Ci fermiamo, una piccola pausa, torniamo subito da voi. Attraversiamo confini ogni giorno, piccoli o grandi momenti che modificano l'arco della nostra vita e ci trasformano per sempre. Perché le nostre storie raccontano di noi molto più di qualsiasi presentazione. Invia un episodio della tua vita che ha a che fare con un confine e il passaggio di quel confine a lineedombra@radio24.it. Una, massimo due pagine, e noi ogni giorno ci prendiamo lo spazio e il tempo per raccontarla. Linee d'ombra di Matteo Caccia, dal lunedì al venerdì alle 15 e il sabato alle 21.30 su Radio 24. Nessuna è perfetta. Eccoci, eccoci di ritorno. Vi ricordo che per commentare con noi quello che ci sta dicendo Lapo Elkan, potete chiamarci all'828 12 12. I vostri commenti li ascolteremo e li commenteremo con gran piacere domenica prossima. 828 12 12. Dagli anni 80 agli anni 2010, ma anche 2020, il messaggio era: divertitevi, arricchitevi, Sì, c'è sempre stato chi dava una mano col volontariato, c'è sempre stata l'attività benefica, però si facevano grandi feste di beneficenza e spesso i soldi che venivano raccolti nelle feste servivano semplicemente a pagare il costo della festa stessa. Il Covid ci ha cambiato, ci ha fatto capire che cosa è davvero essenziale nella vita. Tu che cosa hai imparato da questa doppia circostanza? Prima un grave incidente che ha fatto rischiare la tua vita e poi il Covid. Che cosa hai imparato da questi mesi? Allora, ho imparato, la prima cosa è che grazie a Dio sono vivo, che è la cosa più importante. E secondo, che io personalmente ho voglia di fare un giro di volta nella mia vita, che è quello di dire voglio dedicare molto più tempo all'aspetto della solidarietà e diventare un ambasciatore, come dire, più che un ambasciatore, un imprenditore della solidarietà, coinvolgendo tanti altri imprenditori e persone, perché è uniti che si vince e vincerà. Dunque supportando, aiutando e facendo e mettendoci la faccia che le cose cambiano. Ho imparato con fatti che si può aiutare gli altri, che è importante essere uniti e lavorare insieme ad altri. Dunque vuol dire in Italia prendere migliori, in Portogallo prendere migliori, in Spagna prendere migliori, piuttosto che in Brasile prendere migliori, piuttosto che in America o in tanti altri paesi, a secondo di dove faremo la campagna, perché al momento la priorità è annessa e connessa a supportare chi non ha di che mangiare. Poi ci sono tantissimi altri temi sui quali abbiamo lavorato nell'aiutare i dottori e le infermiere ad un aiuto psicologico per supportare i bambini in questo momento di Covid, perché la realtà è i bambini lo vivono in maniera diversa degli adulti, e come può un dottore o un infermiere essere al meglio al servizio del bambino con tutto ciò che necessita. Dunque come fondazione abbiamo voluto anche aiutare su quello, abbiamo aiutato anche i rioni più poveri di Napoli regalando la pizza a tutti i rioni più poveri di Napoli insieme a Ciro, che è un pizzaiolo napoletano. Ci saranno attività che svolgeremo sulle mascherine per i bambini, ci saranno come dire tante cose che faremo sulle mascherine e che abbiamo già fatto, perché all'inizio del Covid abbiamo mandato mascherine che sia alla Lombardia, a Napoli, a Reggio Calabria e in tante altre aree dell'Italia. Dunque, ecco, senti, Lapo, scusami Maria. È importante anche comunicare, no? Perché qualcuno potrebbe dire: ah, beh, però le cose benefiche si fanno e non si dicono. No, bisogna dirle, perché se no nessun altro le farà. È così. Ma secondo me, io sono dell'opinione che vanno comunicate. Per quale motivo lo dico? Perché io, come ti ho detto, voglio diventare l'imprenditore della solidarietà. E mi auguro che saremo in tanti, e mi auguro di poter, come dire, farlo insieme ad altri, come l'ho fatto con Italy, l'ho fatto con Barilla, l'ho fatto con Continente in Portogallo, poterlo fare con tante persone in giro per il mondo, e mi hanno aiutato imprese come Mediaset piuttosto che altre aziende. Dunque la realtà dei fatti è che devo dire che molte aziende sono stato di supporto a modo loro in tutte le campagne, come il gruppo Santander, come ripetevo Continente, e adesso per altri paesi ci saranno i partner che si aggiungeranno nell'aiuto, nel supporto, non solo tramite la loro professione ma anche con un supporto economico che danno alla campagna. Dunque indirettamente questo viene poi preso per la raccolta, per i buoni spese, buoni pasto o in tonnellate di cibo a secondo di chi è il partner. Dunque per quello che riguarda Never Give Up, nunca desistir, e il susseguirsi di never give up e nunca desistere in altri paesi del mondo. Ma la realtà dei fatti è che stiamo facendo un sacco di progetti, a breve partiremo con un progetto legato alle dipendenze, dunque vuol dire come supportare e aiutare chi ha dipendenze annesse e connesse a droga piuttosto che a gioco, e partirà da Scampia. Stiamo costruendo un progetto più leggero, che è quello di portare il cinema nei rioni più poveri del mondo, dunque partendo da Scampia, poi dopo col Brasile nelle favelas, e ne stiamo parlando con Walt Disney. Dunque sono tanti punti sui quali stiamo lavorando. Che cosa ti dà? Che cosa ti dà questo lavoro? Cioè, tu sei stato un ragazzo molto, molto festaiolo. Sei stato un ragazzo molto festaiolo. Ora hai 40 anni. 42 esattamente. 42 e ci sono, come dire, queste novità importanti, no, nella tua vita. Che Ma cosa ti dà? Queste novità importanti nella mia vita, in primis vorrei dire che sono venute dal cuore, sono venute dal fatto che ho proprio voglia e sento e risento il bisogno di fare ciò, perché ciò è chi sono. L'apo è un buono, è un generoso, è una persona che ama gli altri e che vuole supportare ed aiutare gli altri. Poi non lo nego che in questo c'ho al mio fianco una donna che mi ha molto aiutato e supportato nel mettere in atto queste cose, dunque mi trovo anche molto supportato nel voler fare ciò da una donna molto forte che mi ha aiutato immensamente e che indirettamente, se il Portogallo è andato fantasticamente, è merito suo, ecco. Dunque la realtà dei fatti è che è tutto un gioco di squadra, dunque che sia posso chiederti, un gruppo Lapo, per vincere, sì, dimmi, scusa. Ecco, volevo chiederti, nella tua vita sì. A chi devi il grazie più importante? Da quando sei nato a oggi, il grazie più importante, perché questa è una puntata sulla gratitudine, no? Abbiamo detto che siamo tutti molto grati ai medici. Allora direi il grazie più importante in un momento come questo, ovviamente i medici, gli infermieri, tutti i volontari, eccetera, eccetera. Ma la realtà dei fatti è che il grazie più importante lo devo a Dio, perché più volte mi ha salvato. E il secondo grazie più importante lo devo all'Italia, che è il mio paese, che mi ha sempre stimolato, supportato, e non c'è un amore che è altrettanto forte quanto l'amore che io ho per l'Italia. L'Italia è stata fonte di ispirazione, è stata fonte di amore, è stata fonte di visione, è stata fonte di costruzione, e lo rimane sempre. E poi devo dire, ringrazio mio fratello e mia sorella, senza i quali probabilmente non riuscirei a fare e a costruire la mia vita come lo voglio. Ma con il supporto di un fratello e di una sorella che ci sono sempre e ci siamo sempre l'uno per l'altro, questo è un enorme aiuto nella vita di tutti i giorni, perché sappiamo di poter contare l'uno sull'altro. Sono coinvolti anche loro nel tuo lavoro della Fondazione LAPS, o è una cosa che non sono coinvolti perché ognuno di loro fa il proprio lavoro. Mia sorella ha appena fatto il suo film, mio fratello si occupa di tutto il gruppo Exor, FCA, eccetera, eccetera, ed è anche... Sì, lo sappiamo bene, è stato al centro di tante polemiche. Sì, ma io non ci entro nelle polemiche, è stato, è anche presidente della Fondazione Agnelli, dunque lui fa, come dire, fa tanto e fa, come dire, gestisce aziende molto più grosse e si occupa di ciò che ovviamente tutti sanno, ecco. Ci fermiamo, una piccola pausa, torniamo subito da voi. Nessuna è perfetta. Eccoci di ritorno. Senti Lapo, il grazie che tu dai, l'abbiamo visto e ce l'hai raccontato nel dettaglio. Invece, i grazie che hai ricevuto, cioè qualcuno che ti ha detto grazie e che ti ha emozionato più di tutti nella tua vita. Il grazie più importante che mi ha emozionato di più nella mia vita, il grazie più importante che ho avuto è quello da tutte le persone che lavorano con me ed insieme a me, perché nel periodo del Covid io nelle mie aziende ho supportato tutte le persone che lavorano per me, per dovere, ma anche perché penso che sia doveroso da una persona come me e una persona come me, anche se le aziende erano in difficoltà, in complessità, io ho fatto tutto il possibile per supportare ed aiutare i miei dipendenti in tutto e per tutto, e questo lo faccio quotidianamente senza doverlo dire, che vuol dire che i miei dipendenti o chi lavora con me o il mio team, se mai avessero problemi di famiglia legati, non lo so, un padre che ha il cancro piuttosto che altre cose, sanno tutti di poter contare su di me al 100%, che io ci sono sempre e ci sarò sempre per aiutarli e supportarli, perché, come ripeto sempre, la bontà è una qualità e non un difetto, l'essere buoni è una qualità e non un difetto. Dunque, se uno crea un ambiente certamente dove si è competitivi e si combatte per essere delle aziende che funzionino, che crescano, eccetera eccetera, ma uno ci mette anche bontà e generosità d'animo, diventa tutto più costruttivo, più positivo e apporta e porta serenità a tutti quelli che lavorano con ed insieme a te. E questo per me come imprenditore e come essere umano è fondamentale in tutto. Senti, quello quindi, che faccio, Lapo, dalla fondazione. Certo, Lapo, senti, posso chiederti quindi attività. Certo. Ecco, quindi secondo te la stagione dei lupi di Wall Street, la stagione dei, della gente interessata solo ai soldi, all'avidità, quella stagione lì, secondo te, quella stagione in cui uno si vergognava a dire sono buono, perché bisognava essere cinici, cattivi, spietati, ecco, quella stagione lì certamente non sarà tramontata, perché sarà, ci sarà sempre nel mondo la finanza che deve essere spietata e cattiva, l'impresa che deve guardare al profitto, per carità. Ma secondo te oggi anche l'immagine di un imprenditore si avvantaggia di uno stile che è meno aggressivo e più, appunto, come dici te, più buono? Allora, io mi augurerei che fosse così e non posso dire che è così, perché la realtà dei fatti è che si sente comunque, come dire, divergenze tra imprenditori e divergenze anche tra le persone che operano, giustamente, perché ci sono persone che si sono trovate senza niente e senza l'aiuto delle banche, dunque estremamente incazzati, direi parte dei piccoli e medi imprenditori. Ci sono persone che invece sono state aiutate, ci sono persone che hanno dovuto chiudere purtroppo le proprie aziende e ci sono persone che, non avendo i prestiti bancari, purtroppo bisogna dire la verità, si sono rivolte alla mafia, alla camorra, all'andrangheta. Dunque, tristemente, in un contesto come quello italiano, la malavita ha anche preso, come dire, parte di certe aziende, perché certi imprenditori disperati si sono lasciati, come dire, irretire. Sì, purtroppo per loro e purtroppo per l'Italia in generale. Dunque, la realtà dei fatti è che, questo lo dico a livello italiano, ma a livello mondiale vedo che c'è gente che sta morendo di fame e che, purtroppo, ho paura, la realtà dei fatti, che si incazzi. Non amo il fatto che si incazzi, ma lo capisco benissimo, perché uno che perde il lavoro e c'ha dei figli, come gli fa mangiare, cosa gli dà da mangiare? Dunque, credo e ne sono anche certo che purtroppo verranno tempi molto duri, dove si vedranno persone in grandissima difficoltà e persone che soffriranno sempre di più. Dunque, se si è pensato ai ventilatori, alle mascherine, eccetera, eccetera, oggi io quello che vedo è che ci saranno sempre più poveri, purtroppo, e ci saranno sempre più persone con necessità di cibo, e questo lo vedo in Italia, lo vedo in Portogallo, lo vedo in Spagna, lo vedo in tutti i posti del mondo, perché la realtà dei fatti, questa crisi ha messo in ginocchio tanti, e i poveri tanti, anche negli Stati Uniti poveri, e anche assolutamente certo. Sì, ma negli Stati Uniti l'impatto ha avuto più impatto sui latinos e sugli americani neri, sui neri americani, afroamericani. Dunque, come dati, se uno guarda, sono i latinos e gli afroamericani che hanno avuto più morti. Dunque, la realtà dei fatti è che, mi permetto di dire, se io fossi al governo ripartirei dagli ultimi, perché sono gli ultimi che vanno aiutati di più, perché la realtà dei fatti sono in disperazione e non hanno nulla, questo secondo me, e questo non vale per l'Italia, ma vale per il pianeta e per il mondo, ed è per questo che dico tutti quelli che possono devono essere solidari e devono aiutare, e questo vale per chiunque. Dunque vuol dire ognuno può fare la sua piccola parte, c'è chi può mettere un euro, chi può mettere 1.000 euro, chi può mettere la faccia, chi può aiutare costruendo, aggregando gruppi per apportare liquidità e al contempo stesso tonnellate di cibo. Ognuno può fare la sua differenza e ognuno. Ti chiedo l'ultima cosa, Lapo, ti chiedo l'ultima cosa. Certamente. Posso farti l'ultima domanda? Certo, c'è un super miliardario al mondo, Bill Gates, che si è detto disposto a mettere in gioco una buona parte della sua fortuna per cercare di trovare rapidamente un vaccino contro il Covid. Certo, sui social media si è scatenata una dietrologia per dire così si vuole impadronire del potere del mondo. Tu che ne pensi? Io penso che uno, si sono create tante fake news attorno a Bill Gates per distrarre l'attenzione degli errori degli altri negli Stati Uniti. E penso che Bill Gates, che conosco, ho conosciuto 20 anni fa quando lavoravo con Kissinger e ho conosciuto a Davos, penso con tutto il rispetto parlando che è un uomo umanamente incredibile ed è una persona che vuole far del bene, si è tolto dall'operatività di tutte le sue aziende ed è operativo sulla sua fondazione, e la sua fondazione è probabilmente la fondazione migliore che c'è al mondo ed è la fondazione che ha salvato più persone al mondo. Dunque, se uno va a guardare i numeri parlano da soli, e la realtà dei fatti, io con tutto il rispetto parlando ho una stima immensa di Bill Gates, ho parlato con quelli che gestiscono la sua fondazione e il modo e le modalità con cui lo fanno è da Oscar. Dunque la realtà dei fatti io vedo più un esempio che una persona da attaccare, perché una persona che dà, una persona che fa, e lui gli aggiungerei anche Warren Buffett che fa insieme a lui, uno può dire quello che vuole su di loro, ma la realtà dei fatti è che sono gli individui al mondo che insieme hanno salvato più vite. Dunque criticare, attaccare gente che ha fatto questo è, permettimi di dire, da scemi. Questo è il mio umile parere. Poi se grazie Lapo, io ti scusami. Ti ringrazio moltissimo della tua presenza, Nessuna è perfetta. Allora in bocca al lupo con il grazie tuo lavoro per la Fondazione Laps e buona domenica. Grazie di cuore, un bacio a te Maria. A prestissimo. Ciao, grazie. continuiamo a parlare di gratitudine, che è un sentimento bellissimo, che fa proprio bene, ma ce lo dirà la nostra ospite Nicoletta Carbone, voce a voi ben nota, collega di Radio 24, conduce Obiettivo Salute e La Bufala in Tavola, che è in onda oggi. Beh, Nicoletta, sei stata preziosa in tutti questi mesi in cui attraverso i tuoi ospiti, sempre scelti con grande oculatezza, ci hai fatto capire in che guaio eravamo finiti col Covid-19. Però questa domenica vogliamo guardare all'altro lato, alla gratitudine che dobbiamo in primis ai medici, agli infermieri, agli operatori sanitari, e al fatto che essere grati è correlato allo stare bene, sia fisicamente che psicologicamente. È così? È proprio così. Intanto, Maria, grazie, ti sono grata per questo invito. Possiamo essere grati anche alle piccole cose e grati soprattutto alla vita. E abbiamo, come tu sai, investito molto in gratitudine, in questa sorta di intelligenza emotiva che fa bene alla nostra salute, al nostro benessere, ma anche alle relazioni. Noi abbiamo bisogno di nuovo, nella nostra nuova normalità, di relazioni, pur con il distanziamento fisico, che non deve essere un distanziamento sociale. Abbiamo bisogno degli amici, di interfacciarci, di creare dei legami con le persone, di avere degli stimoli, e la gratitudine è uno straordinario collante. Ci sono delle ricerche che arrivano dalle neuroscienze che ci dicono che l'essere grati produce una serie di meccanismi a livello cerebrale che fanno bene, regalano salute, regalano benessere. Ma la cosa, come funziona, Nicoletta, questo rapporto tra, guarda, la gratitudine, il sentimento di dire grazie, e l'effetto benefico che ne ricaviamo? Su quale parte del corpo funziona di più? Guarda, se noi la sentiamo nel cuore, ma c'è tutta una serie di reazioni che si innescano a livello cerebrale. Ma ti dirò di più, sai cosa ho scoperto, Maria? Che gli scienziati hanno dimostrato che non serve tanto essere grati a qualche cosa o qualcuno, anche una parte di noi, già solo l'esercizio, cercare, anche sai quando uno dice io non ho niente e nessuno a cui essere grati, ma ecco, fermati, prova a cercarlo, in quell'esercizio, mentre tu cerchi di che cosa o per che cosa essere grati, si attivano gli stessi meccanismi che si provano quando invece riconosciamo distintamente un oggetto, una situazione, una persona a cui siamo grati. Quindi è straordinario, della serie gratitudine, basta provarci, i risultati sono assicurati, mi piace. Senti, stress e depressione da un lato e energia e vitalità dall'altro, come sono correlati alla gratitudine? Beh, sai, nel momento in cui questa sorta di intelligenza emotiva ti invade e può guidare anche le tue scelte, le tue decisioni, il tuo modo di stare nel qui e ora, noi abbiamo imparato che dobbiamo provare a stare bene nel qui e ora, probabilmente i pensieri, le rimuginazioni, l'ansia anticipatoria si spengono, si silenziano un po'. Noi comunque dobbiamo, Maria, tu lo sai bene, imparare ad accettare le nostre emozioni, anche le emozioni che magari ci danno un pochino fastidio, accettarle senza giudicarle e riconoscerle nel momento in cui appaiono. Ne parlavo con il professor Morelli proprio in una delle nostre interviste del mattino, e lui diceva che noi siamo soliti metterci delle etichette e dire ho l'ansia tutto il giorno, sono ansioso, sono triste. In realtà quello che dovremmo fare è andare a analizzare, solamente accettare il momento, in quel momento in cui sentiamo lo stress che batte, in quel momento in cui ci sentiamo soffocare dall'ansia, e poi andare avanti. In fondo questa intelligenza emotiva, la gratitudine, il voler guardare anche le piccole cose che ci possono cambiare anche un po', no, il momento, la vita, può essere anche questo una ricetta per gestire il nostro quotidiano, questa nuova normalità. L'ultima domanda che vorrei porti, Nicoletta, è quali cambiamenti sono intervenuti a livello emotivo in tutti noi nella stagione del coronavirus? Come ci ha cambiato? Qualcuno dice no, torneremo a essere pessimi come eravamo prima, però invece qualcosa ci ha cambiato. Conosco persone che non hanno più voglia di uscire da casa. Sì, ne abbiamo parlato anche in una puntata di Obiettivo Salute Weekend, viene così, è stata ribattezzata la sindrome della capanna, persone che non vogliono più uscire, rimangono un po' nella loro tana, quasi frenate da una paura di affrontare questa quotidianità che sappiamo che non è più uguale a quella che abbiamo lasciato, è nuova e tutti i cambiamenti un po' ci fanno paura. Abbiamo avuto la paura, e l'abbiamo ancora, di questo nemico che proprio perché è invisibile ci fa ancora più paura. Le reazioni sono state tante diverse. Io credo che ci ha lasciato un grande insegnamento questi, perché ogni esperienza ci cambia, anche se non vogliamo accettarlo, e cioè ci siamo resi conto di quanto sia preziosa la nostra salute, che è un tesoro, uno scrigno di cui noi spesso ci rendiamo conto solo quando è messa in pericolo. Abbiamo imparato quanto possiamo essere determinanti, quanto conti l'essere responsabile, quanto tutelando la nostra salute proteggiamo quella degli altri, e ci siamo resi conto anche che da soli non si va da nessuna parte. E questo credo che sia un insegnamento fondamentale, questo da soli non si va da nessuna parte è quello che ci diceva anche poco fa l'Apo Elkan. Nicoletta, grazie, buona grazie. Domenica, ma grazie, ti ritrovano tra pochissimo proprio qui a Radio 24 con la bufala in tavola, e quindi grazie. È un arrivederci, a tra poco allora. A presto, un abbraccio forte e stretto. Quando arriva la cassa integrazione, dove ritiro i buoni per fare la spesa? Posso sospendere il mutuo e le rette dell'asilo nido? Posso revocare il contratto con il catering del matrimonio? Il coronavirus ha mandato in crisi tutti gli italiani. Mutuo, affitto, bollette, rate e persino la spesa quotidiana per migliaia di persone sono diventati un incubo. Parte così Homo Covid, lo sportello aperto agli ascoltatori che troveranno le risposte di cui hanno bisogno sul sito di Radio 24, in collaborazione con consumerismo.it. Metteremo insieme i vostri quesiti per dare una risposta unica alle domande di tutti. Un prontuario per famiglie e consumatori, lavoratori, liberi professionisti, commercianti e imprenditori. Un canale a cui affidarsi per cercare il supporto necessario ad affrontare una delle crisi più gravi mai vissute prima dal nostro paese. Scrivete a duedidenari@radio24.it e redazione@consumerismo.it. Nessuna è perfetta. Eccoci, ultima parte di Nessuna è perfetta, puntata dedicata alla gratitudine, un sentimento che fa star bene al cuore, come ci diceva la nostra Nicoletta Carbone, fa proprio bene anche alla salute. Peccato quelli che non lo conoscono, è un sentimento bellissimo, e imparare a dire grazie aiuta, l'abbiamo visto, fa sentire anche meno soli e più utili. E tanto per dire grazie a una persona che diventa simbolo di tutta la sua categoria, l'ospite di questa ultima parte di Nessuna è perfetta è un medico specialista in malattie infettive all'ospedale San Raffaele di Milano. Benvenuta, buona domenica alla dottoressa Paola Cinque. Buongiorno. Dottoressa, i medici, gli infermieri, gli operatori sanitari sono stati in questi mesi la roccia e il punto di riferimento di tutti i paesi, perché la sua categoria si è dimostrata All'altezza del giuramento di Ippocrate e anche con un tributo di vite purtroppo molto alto. Medici, infermieri, operatori sanitari ai quali dobbiamo dire grazie ora e anche domani dovremo dirglielo, perché la gratitudine è un sentimento che bisogna coltivare nel tempo. Che cosa si porterà dietro, dottoressa Cinque, di questi mesi, da questa esperienza? Beh, tante cose, e innanzitutto è giusto dire che io ho vissuto questa esperienza da entrambi le parti, dalle parti di un paziente, una paziente che si è presa la malattia, e dalla parte del medico, quindi, che ha curato persone che come me si sono ammalate. E lei dopo quanto tempo si è ammalata, dottoressa? Ma allora, io mi sono ammalata in febbraio, quando venivano riconosciuti i primi casi, tanto è vero che il fatto che mi sia ammalata probabilmente è stato dovuto al fatto che non ho osservato delle misure di protezione. Io mi sono ammalata prima ancora che scoppiassero i casi nei focolai qui nel nord Italia. E quanto è durata la sua esperienza di paziente? Quanto tempo è stata malata e dopo quanto è tornata in ospedale? Dunque, io devo dire che sono stata fortunata, nel senso che ero uno dei primi casi. Dopo che ho avuto il responso del tampone positivo, le mie colleghe mi hanno voluto ricoverare in ospedale. Fra l'altro io sono medico infettivologo, per cui sono stata ricoverata nel reparto di malattie infettive della struttura in cui lavoro. E dopo che mi è passata la febbre alta, che ho avuto i primi giorni a casa, ho avuto un paio di giorni di benessere, poi mi è tornata la febbre, poi quindi c'è stato il riscontro di una polmonite, insomma, quei valori d'ossigeno che erano calati un po', però me la sono cavata in una decina di giorni. Il problema è stato il tampone, che è risultato finalmente negativo dopo quasi 6 settimane dal primo, per cui io non sono potuta rientrare al lavoro se non all'inizio di aprile, quando il tampone è finalmente risultato negativo. Per cui, ecco, dottoressa, lei è rientrata nel pieno della bufera. Qual è la sua sensazione? Con libertà ci può dire se pensa che siano stati commessi degli errori in Lombardia e perché secondo lei la Lombardia sta ancora lottando contro il Covid, che in altre regioni sembra una storia superata, almeno temporaneamente? Ma adesso, col senno di poi, possiamo dire che molti casi di Covid erano già presenti in Lombardia prima dell'esplosione dei casi di Codogno e degli altri focolai del Lodigiano e nel paese del Veneto. Ci sono stati probabilmente dei casi, delle piccole catene di trasmissione che poi devono avere raggiunto una massa critica, per cui adesso, per carità, io non voglio rubare il mestiere a nessuno, però la sensazione è che questi focolai non sono stati riconosciuti in tempo e fermati in tempo con tutte le misure epidemiologiche. Poi, per quello che riguarda il fatto che la Lombardia sia ancora dentro, guardi, quello che vedo io ormai in ospedale è che i casi con polmonite da Covid non si vedono praticamente più. Ora sì, c'è qualche persona che viene ricoverata, però in genere per altri problemi, e quando viene fatto il tampone all'ingresso in ospedale viene riscontrata una positività che probabilmente è una coda di un'infezione precedente. Però possiamo dire chiaramente che dal punto di vista di chi lavora in ospedale l'epidemia si sta spegnendo, se non si è già spenta completamente. Senta, dottoressa Cinque, lei ha sentito attorno a sé, nella sua comunità, tornando a casa, il sentimento di gratitudine che quasi tutti gli italiani hanno avuto modo di esprimere, chi l'ha fatto con gli applausi alle 8 della sera, chi l'ha fatto con gli striscioni. Purtroppo ci sono suoi colleghi che hanno anche sperimentato la maleducazione, la diffidenza dei loro vicini di casa che temevano di essere contagiati. Lei che cosa ha sperimentato? Ma devo dire, con tutti i limiti delle ristrettezze che ci ha costretto questo periodo, sì, ho sperimentato una grossa gratitudine, persino esagerata, perché comunque io credo che in questa fase ciascuno di noi abbia fatto quello che doveva e che poteva fare, andando al lavoro e stando a casa. Però il sentimento che ho trovato e che ho percepito è stato assolutamente positivo. Assolutamente, e non solo positivo. Senta, dopo... in termini di come dire, di sentirsi dire delle cose apprezzabili, ma anche in termini utili: posso fare qualcosa per te, ti faccio la spesa, ti faccio da mangiare, insomma tutta una serie di attenzioni che in un altro periodo non ci sarebbero stati. Non ci sarebbero stati. Forse siamo meglio di quanto non amiamo dipingerci. Senta, dottoressa Cinque, secondo lei questa emergenza Covid-19, che molti temono si possa ripresentare in autunno, ci ha insegnato qualcosa che di cui dobbiamo fare tesoro nella formazione di medici e operatori sanitari? Beh sì, insomma questa è stata una grandissima epidemia e a cui il mondo intero doveva arrivare in modo più preparato, insomma, come dicono gli esperti che fanno il lavoro di gestire le emergenze. Non siamo noi a dover correre dietro il virus, ma dobbiamo anticiparlo, dobbiamo precederlo. Però queste, diciamo, sono valutazioni a livello globale. E io cosa posso dire? Che veramente quello che ho visto, che ho letto, perché in questo periodo, anche essendo stato a casa un mese in quarantena, ho studiato tanto, è stato un impegno su tutti i fronti, anche sul fronte della ricerca, nel senso che nel giro di 2-3 mesi sono state messe insieme tante conoscenze, sono stati fatti dei passi enormi dalla scoperta dell'origine del virus, i primi passi dell'epidemia, la messa a punto di test diagnostici, si sta parlando già di vaccini, studi clinici su farmaci che vabbè, magari hanno dimostrato anche di non funzionare. Però la cosa importante è davvero che la ricerca dietro ai medici in prima linea, dietro agli infermieri, agli operatori in prima linea, si deve muovere velocemente e al di là di tutte le difficoltà diplomatiche, politiche, gestionali, organizzative. Questo è un messaggio davvero fondamentale, però ci sono molti dati incoraggianti, sì. E su questa nota incoraggiante io ringrazio la dottoressa Paola Cinque, specialista in malattie infettive al San Raffaele di Milano. Le auguro buona domenica e auguro buona domenica a tutti voi. Ci sentiamo, se vorrete, domattina, come sempre, da lunedì al venerdì 24 mattino alle 8:20 con Simone Spezia, oppure ci risentiremo questa domenica. Non fatemi mancare i vostri messaggi sulla casella vocale 800 28 12 12. Li aspetto e vi aspetto domenica prossima. Ciao.